Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Le stime diffuse dall'Istat lo scorso 14 luglio sono a dir poco allarmanti. Ci dicono che nel 2015 ammontano a 1.582.000 le famiglie italiane che vivono in una condizione di povertà assoluta. Se poi si guarda alle singole persone, secondo il nostro istituto di statistica, i poveri assoluti salgono e di molto. 4.598.000 persone. È il numero più alto dal 2005. Si può discutere su quali siano i criteri per definire la povertà assoluta o la povertà cosiddetta relativa, eppure questi dati mettono in luce in modo lampante una situazione di evidente disagio sociale, conseguenza della lunga crisi dalla quale stiamo provando a fatica a uscire. Una situazione che pone interrogativi sulla qualità del modello di sviluppo che da noi, e non solo da noi, si è andato affermando negli ultimi decenni. E ci riporta indietro, molto indietro nel tempo. La sostanza è che l'Italia, la terza economia europea, uno dei paesi più industrializzati del mondo, oggi, 2016, deve fare i conti con 4 milioni e mezzo di poveri. Ecco quanto ci dice l'Istat. Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con quattro componenti, soprattutto coppie con due figli, e tra le famiglie di soli stranieri, in media più numerose. L'incidenza della povertà assoluta aumenta al nord sia in termini di famiglie, dal 4,2 del 2014 al 5%, sia di persone, dal 5,7 al 6,7%, soprattutto per l'ampliarsi del fenomeno di gruppi familiari composti da soli stranieri. Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie che risiedono nei comuni centro di area metropolitana e tra quelle con persone di riferimento tra i 45 e i 54 anni di età. Peggiorano anche le condizioni delle famiglie con membri aggregati e di quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione, soprattutto nel mezzogiorno. Il 38,2% dal 29,5% del 2014, dove risultano relativamente povere quasi 4 famiglie su 10. A livello territoriale è il mezzogiorno a registrare i valori più elevati di povertà assoluta, con il 9,1% di famiglie e il 10% di persone, e il centro quelli più bassi, con il 4,2% di famiglie e il 5,6% di persone. Nel 2015 le famiglie sicuramente povere, che hanno livelli di spesa mensile equivalenti inferiori alla linea standard di oltre il 20%, sono il 5,2%, quota che sale all'11,3% nel mezzogiorno. Abbiamo in linea il professor Giovanni Vecchi, docente di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, che è autore del volume edito dal Mulino In ricchezza e in povertà, il benessere degli italiani dall'Unità Oggi, volume di imminente riedizione e aggiornamento in inglese presso la Oxford University Press. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi e chi è in ascolto. Ascoltiamo questo breve passaggio del capitolo del suo libro dedicato alla povertà. Al tempo dell'Unità d'Italia, gli italiani erano poveri, sapevano di esserlo, ed era difficile per un osservatore contemporaneo immaginare che la situazione potesse evolvere rapidamente. A distanza di oltre 150 anni, gli italiani hanno stupito tutti, forse anche se stessi. Sono diventati ricchi, tanto rispetto al passato, quanto rispetto alla stragrande maggioranza degli altri paesi del mondo. Se però l'Italia nel suo complesso è uscita dalla trappola della povertà, non altrettanto possiamo affermare per tutti gli italiani. Cosa sappiamo, al di là di qualche cifra raccolta e diffusa senza troppo risalto nel secolo e mezzo trascorso? La prima stima istituzionale della povertà comparve solo nel 1979, quando prese il via l'indagine finanziata dalla Comunità Economica Europea all'interno del programma sperimentale Azione contro la povertà. Allora, professor Vecchi, dal suo libro noi appunto apprendiamo che l'Italia ha fatto grandi progressi dall'unità in poi, e tuttavia i dati dell'Istat ci riportano in una situazione assoluta urgenza. 4.598.000 persone in condizione di povertà assoluta. Sì, bene ha fatto l'Istat a portare queste cifre all'attenzione del paese. Sono cifre che non nascono dalla crisi recente finanziaria, ma hanno un'origine un po' più antica. E il paese si è fermato di crescere all'inizio degli anni 90. E la crescita, sappiamo, è diventato un problema strutturale, a cui si è aggiunto un aumento delle disuguaglianze. E quando si ferma la crescita e aumentano le disuguaglianze, la povertà aumenta. E quello che ha sorpreso è la velocità di questo aumento, che ci ricorda che quanto abbiamo conseguito in termini di benessere va poi difeso, quindi adesso abbiamo un problema di attuale urgenza che dobbiamo affrontare e rapidamente. Il suo libro, professor Vecchi, In ricchezza e in povertà, il benessere degli italiani e l'unità di oggi, è un libro ponderoso, frutto di una lunghissima attività di ricerca. Ora appunto lo sta per ripubblicare in inglese. Ecco, ci spieghi un attimo questo passaggio. Sì, scrivere la storia di un paese, come abbiamo fatto qualche tempo fa con tanti coautori, quando abbiamo celebrato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata un'occasione per riflettere, ricostruire tanti numeri e raccontare una storia basata su fatti anziché su così evidenze più qualitative. Ed è emersa una storia che è stata ben riassunta dalla vostra scheda: il paese è diventato ricco e nessuno si aspettava questo dei contemporanei. Tuttavia, quando si confronta quando si vuole scrivere la storia di un paese, è bene metterla in un contesto anche internazionale per capire se altri hanno fatto meglio o quanto meglio. Quindi abbiamo studiato nuovamente questa parabola di 150 anni, giungendo a conclusioni spesso diverse, perché quando ci si confronta i giudizi cambiano, e per stare al tema di cui stiamo trattando, della povertà, abbiamo capito cose forse meno lusinghiere. Abbiamo capito per esempio che la povertà ha un carattere cronico nel nostro paese, e sono più o meno sempre le stesse persone, circa 4/5 di quelli che sono poveri un anno lo sono anche l'anno successivo. E questo è un dato che non può far riflettere, perché al di là delle cifre con cui non diamo gli ascoltatori, queste sono storie di sofferenze, di vite che non hanno prospettive di uscita. Cosa diversa se la povertà ha un avvicendamento delle persone che sperimentano temporaneamente la povertà, cosa diversa è se invece le persone sono sempre le stesse, perché vuol dire che è un sistema che non è molto efficace nell'aiutare le politiche sociali ad uscire dallo stato di povertà. Quindi si imparano tante cose. Una questione, professor Vecchi, che ha a che fare con l'eterna e irrisolta questione meridionale, ma non solo, perché vediamo dai dati dell'Istat che in effetti questa situazione di povertà assoluta si espande un po' a macchia di leopardo nel territorio nazionale. Sì, questo è un altro tema che merita una riflessione molto attenta, perché si rischia di farsi un po' l'abitudine. Questa mancata integrazione del paese è forse uno dei tratti plurisecolari irrisolti nella nostra storia, emerge in maniera drammatica dalle cifre sia della disuguaglianza che della povertà. E forse, diciamo, non tutti sanno che queste cifre tengono conto anche del diverso potere di acquisto che ci sono nelle diverse aree del paese. Se noi guardiamo per una persona che abbia dai 18 ai 60 anni, questa viene considerata povera a Milano se ha meno di 820 euro al mese. A Napoli se ha meno di 610 euro, quindi oltre 200 euro in meno. Ebbene, nonostante questi aggiustamenti, le cifre che diciamo contano i poveri al sud sono sempre in aumento, a segnare che non solo il problema persiste delle differenze geografiche, ma nonostante gli aggiustamenti a cui si può immaginare, il problema è in aumento. Quindi questo è davvero un grandissimo problema, a mio parere. In sostanza, professor Vecchio ci sta confermando che il potere d'acquisto degli italiani è diverso a seconda di dove vivano. Ma come si può far fronte? Perché il governo, ad esempio, ha messo in campo 1 miliardo per la cosiddetta povertà. Non so se questo è sufficiente, ma insomma, forse bisogna andare anche oltre un po' la situazione di emergenza e cercare di attivare politiche strutturali, non pensa? Mi trovo d'accordissimo. Io sottolineo una cosa: nello studio di questi 150 anni noi documentiamo questo è un capitolo, uno studio fatto col professor Amendola, un collega qui di Tor Vergata, abbiamo documentato come il paese non si sia mai dotato di una linea ufficiale della povertà. Nonostante questi numeri che abbiamo raccontato un po' dell'Istat, questi non sono numeri che abbiano una sponda istituzionale, non sono numeri che il Parlamento abbia discusso, deciso, approvato. Questo vuol dire che l'Italia, da che è stata creata, 17 marzo 1861, non ha mai avuto una linea ufficiale della povertà, vale a dire non ha mai avuto uno strumento con cui monitorare il fenomeno, e in assenza di numeri certi che possono aiutare a rispondere alla domanda che lei ha posto, cosa fare? Beh, direi il punto di partenza è: mettiamo insieme una linea della povertà che serva a quantificare il fenomeno, ad aiutare a capirne le determinanti, dopodiché si può iniziare a pensare a cosa disegnare e quanti soldi servono. Certo, certo. Questa mi sembra fondamentale. Professore, nel ringraziarla, la salutiamo anche per alleggerire un po' il tema, che certamente non è propriamente allegro, facendo ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori questo breve passaggio di un film famoso del 1951, diretto da Vittorio De Sica, dal titolo Miracolo a Milano, ed è la scena delle distribuzioni delle capanne ai poveri. Buongiorno, marito e moglie. Sì. Una capanna per due in fondo a destra. Lei è sola? No, il marito, il bambino e la domestica. Lei è solo? No, mego per chi. Una capanna per due in fondo là. Vorrei che mi scusi, vero? Una capanna dove ci batte il sole. Bene, grazie professor Vecchi, grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti.